Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi siamo qui. Siamo qui per risanare quella ferita inferta a quelle genti e loro discendenti, per chiedere ancora una volta scusa per l'oblio che ha inghiottito per decenni questa sciagura nazionale, alla quale i contemporanei, per superficialità o per calcolo, come ebbe a sottolineare, come ha avuto modo di sottolineare il presidente Mattarella, non hanno dato rilievo. Oggi siamo qui per ricordare, per riannodare il filo di una memoria spezzata e per trasmetterla alle nuove generazioni. Le parole queste, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del Presidente del Consiglio Conte sul giorno del ricordo, quello di oggi, che celebra appunto le vittime della tragedia delle foibe. Ha detto: oggi siamo qui per risanare quella ferita inferta e anche per scusarci dell'oblio che in Italia è durato per tanti anni. Ne parleremo con uno storico, così come naturalmente torneremo anche sugli aggiornamenti relativi al coronavirus, perché l'OMS da una parte lancia un allarme dicendo che i casi che ci sono fuori dalla Cina potrebbero essere solo la punta dell'iceberg, poi dice che però c'è una finestra di opportunità per batterlo perché al momento sono ancora contenuti. Cercheremo di capire un po' come stanno le cose, anche perché oggi sono arrivate poi altre ipotesi che l'incubazione possa durare 24 giorni anziché 15. Insomma, cercheremo di fare chiarezza con il direttore del Dipartimento delle Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Parleremo naturalmente anche di, tra l'altro Trump ha twittato, anzi non l'ha twittato, l'ha detto oggi alla Casa Bianca, che è quasi sicuro che ad aprile, dice lui, il virus scomparirà, perché col caldo ad aprile di solito i virus se ne vanno. Cercheremo di verificare anche questo e poi parleremo, fra le varie cose, anche di cinema, con la vittoria di un film davvero inaspettato ma veramente pazzesco. Se volete, per interagire qui Effetto Notte, lo sapete, pagina Facebook del programma oppure SMS WhatsApp, che potete inviare al 349 238 6666. Coronavirus, l'OMS lancia l'allarme sui contagi all'estero, l'Italia rafforza i controlli, test negativi per i due bambini. Il giorno del ricordo, il presidente del Consiglio Conte chiede scusa per l'oblio calato sulla tragedia delle foibe. Economia italiana frena la produzione industriale, meno 4,3% in un anno. Unicredit annuncia la chiusura di 450 filiali. Il governo è il nodo della prescrizione, Italia Viva minaccia la mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Alta tensione nella maggioranza. Il treno deragliato, la procura di Lodi indaga anche rete ferroviaria italiana. Meteo, la coda della tempesta Charia verso l'Italia. Cinema, il sudcoreano Parasite sbanca gli Oscar, il primo film in lingua non inglese in 92 anni a vincere la statuetta più ambita. Partiamo quindi degli aggiornamenti sull'epidemia del coronavirus. L'OMS lancia un allarme per l'Organizzazione Mondiale della Sanità: i casi di contagio da coronavirus in persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbe essere la punta dell'iceberg. A Pechino intanto il presidente cinese Xi Jinping, che con indosso una mascherina si è sottoposto in pubblico alla misurazione della temperatura, ha detto che la situazione resta molto grave. Tra le nuove misure in Italia, l'applicazione delle procedure sanitarie già in vigore per i voli internazionali a tutti i passeggeri in arrivo da Roma. Intanto il secondo test al coronavirus effettuato allo Spallanzani sui due bambini provenienti dalla città militare della Cecchignola è risultato negativo e quindi possono far ritorno appunto alla Cecchignola. Al contrario, anche il secondo figlio della coppia di Taiwan, che viaggiato in Italia con diagnosi di coronavirus formulata al ritorno da questo viaggio nel nostro paese, è risultato a sua volta positivo, quindi tutta la famiglia è contagiata. Dubbi sui tempi intanto di incubazione del virus, e secondo uno studio tedesco le gocce di saliva infette potrebbero permanere sugli oggetti, sulle superfici, anche per diversi giorni. Ci dirà cosa ne pensa il professor Giovanni Rezza, se sono notizie attendibili o meno. L'economia adesso. Nel 2019 la produzione industriale italiana torna a scendere dopo 5 anni positivi, male soprattutto gli ultimi mesi. La produzione industriale a dicembre in Italia scende del 2,7% mensile, calo più forte da gennaio 2018 e di oltre il 4% su base annua, lo rileva l'Istat, spiegando che dopo la flessione del secondo e terzo trimestre, anche gli ultimi 3 mesi dell'anno segnano una diminuzione, la più marcata dal quarto trimestre 2012. Nel complesso, nel 2019 la produzione industriale italiana segna meno 1,3%, primo calo dal 2014, il più alto ampio, dal 2013, a livello di settori, in caduta libera l'auto, tiene l'alimentare, così Giancarlo Bruno dell'Istituto di Statistica. Tra i settori che perdono di più quest'anno sicuramente ci sono i beni intermedi e i beni strumentali, tengono invece i beni di consumo che mostrano un lieve aumento e l'energia. Dati negativi che arrivano dopo i numeri poco incoraggianti di Francia e Germania. La produzione tedesca a dicembre è crollata del 3,5% mensile e del 6,8% annuo, quella francese di circa il 3%. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E al momento i veri rischi prodotti dal coronavirus sull'Italia sono relativi all'economia. Sentiamo l'analisi dell'economista Francesco Daveri, intervistato da Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Non è stata una gran bella giornata in termini di numeri che sono arrivati da nessuno, da tutte le parti, quindi non si può ovviamente chiudere gli occhi sul fatto che dicembre è stato un mese molto brutto per l'industria, era peraltro previsto perché il dato dell'inchiesta che raccoglie le opinioni dei manager degli acquisti PMA e PMI aveva segnalato un crollo verticale a un valore di 41, che è molto più basso del 50, che invece è quello che garantisce più o meno una crescita zero. Ecco, la produzione industriale è scesa notevolmente in dicembre, come un po' si stavano, della qual cosa stanno rendendo conto anche i manager che fanno gli acquisti in gennaio, sempre guardando però lo stesso indice, questo PMI prodotto da Markit, dà un numero migliore. Non è che voglio a tutti i costi trovare degli elementi di ottimismo, però bisogna continuare a guardare i dati. Prima dell'arrivo del coronavirus c'era un tentativo di trovare elementi di positività che adesso bisogna vedere se sono stati frustrati subito. E in serata il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha detto: giovedì porteremo a Palazzo Chigi alcune proposte per fronteggiare il calo di produzione determinato dall'impatto del coronavirus sulla nostra economia. La ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo ha convocato i vertici di Unicredit per venerdì 21 febbraio. Lo comunica il ministero in una nota dopo l'annuncio del gruppo di 6.000 esuberi. Un piano drastico, quello comunicato ai sindacati, sia per gli esuberi previsti che per i ristretti tempi di attuazione. 6.000 uscite, la chiusura di 450 filiali entro il 2023, con un accordo sui tagli da siglare entro il prossimo marzo. Uno scenario che il segretario della Fabi Sileoni definisce inaccettabile. Jean-Pierre Moustier si illude, aggiunge il sindacato, di poterci squadernare un piano a scatola chiusa, di fatto senza discutere i numeri. Tutto questo fanno capire dalla Fabi dopo i positivi risultati economici per Unicredit dello scorso anno. Nella lettera inviata ai sindacati, i vertici aziendali ribadiscono comunque di voler cercare soluzioni condivise, facendo riferimento all'uscita di personale più prossimo al diritto di pensione. In quest'ambito si guarda quelli che maturano il requisito entro il 31 dicembre 2023. Saranno considerate poi, dicono ancora da Unicredit, ulteriori forme di esodo come quota 100, opzione donna, riscatti di periodi non coperti da contribuzione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso il governo e il nodo della prescrizione. Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione. Italia Viva minaccia la mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Movimento 5 Stelle con Crimi replica che così sarebbe la crisi. Il governo intanto cerca di stringere sull'emendamento al milleproroghe che includa la mediazione. Movimento 5 Stelle, PD e Leo. Il giorno del ricordo, oggi siamo qui, ha detto il presidente del Consiglio Conte, per risanare quella ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti, per chiedere ancora una volta scusa per l'oblio. L'avete sentito inizialmente, ha detto, calato sul dramma delle foibe, l'ha detto intervenendo al Senato, appunto alla commemorazione delle vittime delle foibe. Alla tragedia non è stato dato rilievo per superficialità o calcolo, ha ricordato Conte. Il giorno del ricordo si incrocia con le scuse per l'oblio. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le foibe furono una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono per superficialità o per calcolo il dovuto rilievo. Anche il premier Giuseppe Conte è sulla stessa linea alle celebrazioni in Senato. Uomini vivi, morti, gettati insieme negli abissi delle foibe. Siamo qui per risanare quella ferita inferta a quelle genti e i loro discendenti, per chiedere ancora una volta scusa per l'oblio che ha inghiottito per decenni questa sciagura nazionale. Ma non mancano le proteste alla FOIB di Basovizza. Il PD abbandona la cerimonia quando prende la parola Maurizio Gasparri di Forza Italia dopo l'intervento del presidente della regione Massimiliano Fedriga della Lega. Per Deborah Serracchiani la FOIB di Basovizza è ormai palcoscenico della destra sovranista. Circa 10.000 italiani morirono nelle foibe tra il 1943 e il 1945, 300.000 i profughi che lasciarono l'Istria dopo la Seconda Guerra Mondiale. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso del treno deragliato nei giorni scorsi, proseguono le indagini, quello che è successo per la scorsa settimana a sud di Milano. C'è anche Rete Ferroviaria Italiana tra gli indagati per il deragliamento del treno Frecciarossa avvenuto nei pressi di Lodi giovedì scorso. La società, ha voluto sottolineare il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, non è indagata per ipotesi penale, ma in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, la 231 del 2001, che regola la responsabilità delle aziende per i reati commessi dai dipendenti. 5 di loro sono già stati iscritti nel registro e interrogati dai magistrati della Procura di Lodi, che indagano per omicidio colposo, lesioni plurime e disastro ferroviario. Si tratta di un caposquadra e 4 operai che la notte prima dell'incidente, in cui sono morti 2 macchinisti e 31 persone sono rimaste ferite, erano al lavoro sullo scambio che, stando alle prime ipotesi, sarebbe alla base del deragliamento. I tecnici avrebbero negato di aver lasciato lo scambio in una posizione non corretta. Proprio per compiere gli accertamenti necessari, la procura ha nominato come consulenti gli ingegneri Roberto Lucani e Fabrizio De Rico, gli stessi periti incaricati a suo tempo dalla procura di Milano per il disastro ferroviario di Pioltello del gennaio 2018. Intanto, in media di 40 minuti il ritardo di Frecciarossa tra Bologna e Milano sarà così fino a quando l'area dell'incidente a Ospedaletto Lodigiano non sarà dissequestrata. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo arrivati al meteo. La coda della tempesta Ciaria, che ha fatto molti danni in Europa centro-occidentale, sta camminando verso l'Italia, naturalmente in modo molto depotenziato. Insomma, però poi ne parleremo con il nostro meteorologo di fiducia. Per chiudere il cinema, per chiudere questa prima parte di Effetto Notte, il cinema col sudcoreano Parasite, che ha sbancato agli Oscar a Los Angeles. Pensate che è il primo film in lingua non inglese in 92 anni di premio Oscar a vincere la statuetta più ambita, cioè quella del miglior film in assoluto, oltre ad altre statuette di cui poi parleremo nel corso di questa puntata. Quindi direi di fermarci momentaneamente per aggiornare chi invece si sta muovendo su strade e autostrade, e poi cominciamo ad approfondire alcuni temi in primissimo piano con gli ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Cominciamo dunque a entrare subito nel vivo degli argomenti più importanti, sempre Roberta Giordano con voi, con gli ospiti tra pochi istanti. Vi ricordo appunto, dopo la sintesi della giornata che avete sentito, che le notizie più importanti sono sempre gli aggiornamenti sul coronavirus, nel quale ci addentreremo tra pochissimo. Poi il giorno del ricordo, oggi si commemora la memoria delle vittime delle foibe, anche di questo ci occuperemo nel corso di questa puntata. L'economia italiana, avete sentito il calo forte della produzione industriale e l'impatto che continua a avere il coronavirus sulla nostra economia, e non solo. Il governo e il nodo della prescrizione, c'è alta tensione nella maggioranza, si rischia, dice Crimi del Movimento 5 Stelle, anche la crisi di governo, visto che Italia Viva minaccia un voto di sfiducia nei confronti di Bonafede. Poi del treno deragliato avete sentito gli aggiornamenti per quanto riguarda l'inchiesta. Meteo, la coda della tempesta Ciaria verso l'Italia, capiremo con quali conseguenze. E poi il cinema, questa vittoria straordinaria di un film inaspettato come Parasite agli Oscar. Partiamo quindi dall'argomento che inevitabilmente da diverse settimane domina a livello internazionale, più o meno su tutte le altre notizie, che è appunto il nuovo coronavirus, sul quale tra l'altro tutti i giorni ci sono man mano novità, c'è un evolversi costante. Quali sono allora le più rilevanti? Per cominciare appunto il bollettino dell'ospedale Spallanzani di Roma, dove vengono ricoverati i malati, casi sospetti da verificare, che ha aggiornato poi in serata dicendo che i bambini provenienti dalla città militare della Cecchignola, dove sono i vari italiani che sono tornati da Wuhan con un volo militare, sono senza febbre, in buone condizioni, e anche il secondo test li ha dati come negativi al coronavirus, quindi sono tornati tranquillamente a proseguire la loro quarantena alla Cecchignola. Poi la coppia cinese ricoverata allo Spallanzani, le prime persone che sono risultate malate nel nostro paese, sono sempre in terapia intensiva, sempre in prognosi riservata. Poi diciamo in sintesi che nel nostro paese i casi confermati sono 3, appunto questa coppia di turisti cinesi e un italiano, un giovane ricercatore rientrato da Wuhan, città epicentro dell'epidemia, come sapete, che per il momento è ancora diciamo in buone condizioni. Per quanto riguarda poi la famiglia di Taiwan che ha viaggiato per l'Italia in un giro turistico, risultata poi al suo arrivo a Taiwan positivo al coronavirus, si è saputo oggi che anche il secondo figlio di questa coppia, quindi non solo il primo ma anche il secondo, è risultato positivo al test. Quindi tutta la famiglia è contagiata. Sapete che si è fatta una corsa a rintracciare le varie persone che in questo viaggio per l'Italia si sono sedute accanto nei treni, gli albergatori, nei ristoranti, eccetera, eccetera. Intanto il Comitato Operativo della Protezione Civile ha deciso che ai passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani con un volo da Roma verranno applicate le procedure sanitarie per prevenire il contagio del coronavirus già in vigore per i voli internazionali. E siccome la Cina oggi ha detto all'Italia, insomma, non prendete tutte queste misure così eccessive, la risposta del ministro degli Esteri Di Maio è questa. Per quanto riguarda il tema del blocco, come ho già detto, resterà in funzione finché sarà opportuno. Ecco, quindi ha risposto in questo modo, insomma, finché riterremo opportuno si va avanti così. A livello internazionale sono 40.235 i casi confermati di coronavirus in Cina e 909 i morti. Fuori dalla Cina i casi di coronavirus registrati sono 319 in 24 nazioni, con un solo decesso per fortuna. E poi c'è la nave da crociera che è bloccata nella baia di Yokohama in Giappone, no? La Diamond Princess, nave da crociera con a bordo 3.700 persone, i contagi sono saliti a 135 in modo molto veloce. Sapete che a bordo ci sono anche 35 italiani, di cui 25 fanno parte dell'equipaggio. Per il momento però nessuno di loro è contagiato. Da Pechino il presidente cinese Xi Jinping parla di situazione ancora molto grave, e questo certo non è confortante che lo dica il presidente cinese. E nel frattempo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la Cina hanno deciso di costituire insieme una squadra di esperti, e già una delegazione dell'OMS dovrebbe essere arrivata in queste ore in Cina. A questo punto saluto subito il professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera professor Rezza, bentornato. Buonasera a voi. E grazie della disponibilità, so che è presissimo per il suo ruolo in questi giorni, insomma abbiamo bisogno però delle sue parole, dei suoi chiarimenti. Allora, questa cosa che l'OMS ha detto oggi, che i casi di coronavirus da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbero essere la punta dell'iceberg, cioè le persone che sono fuori dalla Cina, quelle malate che sono risultate su 300 e qualcosa, dice potrebbero essere solo la punta dell'iceberg? O sanno qualche cosa e allora lo dicano, oppure sono parole che non si sa come interpretare, nel senso che si può sospettare che le persone identificate potrebbero essere solo una parte di tutte quelle già infette, ma in quali paesi, dove, insomma, voglio dire, secondo me non è un bel modo di comunicare. Anche perché, professor Rezza, mi perdoni, fra l'altro, sempre sì, nella giornata di oggi, l'OMS prima ha detto questa cosa, poi ha detto abbiamo una finestra di opportunità per sconfiggere il coronavirus, visto che i casi fuori dalla Cina sono solo 390. Quindi da ma una sì, parte dice che la punta dell'iceberg... È contraddittorio, non capisco veramente... Io ho anche lavorato per l'OMS, quindi non vorrei mai parlarne male, assolutamente, perché svolge un ruolo importante e per fortuna c'è l'OMS, però sinceramente queste due dichiarazioni mi sembrano contraddittorie e anche un po' criptiche, perché soprattutto la prima, la finestra di opportunità, capisco se chiaramente finché non ci sono grossi focolai di fuori della Cina e quelli cinesi, qualche misura vengono messi sotto controllo, c'è sicuramente la finestra di opportunità. Sulla faccenda dell'iceberg, sui casi che sono stati registrati al di fuori della Cina e che non avrebbero, cioè nessuno sicuramente, contratto l'infezione in Cina, però che vuol dire che sono la punta dell'iceberg, dove, a che quali paesi si fa riferimento, sarebbe bene sapere. Insomma, domani c'è comunque una conferenza, noi ci colleghiamo, io mi collegherò per via remota, ma seguirò la conferenza che si terrà all'OMS. Vediamo se ci hanno vediamo, ecco, se qualche indicazione più chiara e meno contraddittoria, certo, insomma, no, di quelle certo, che avute oggi. Assolutamente. Invece, professore, sulla questione dell'incubazione, allora, finora si era detto che il virus poteva avere un periodo di incubazione di 15 giorni, per cui le quarantene, diciamo, si facevano sulle persone sospette, diciamo, casi sospetti, di una quindicina di giorni. Invece adesso si parla anche di fino a 24 giorni, per cui no, anche questo non è molto confortante, perché uno pensa, beh, con 15 giorni se uno non dimostra di avere i sintomi è tutto tranquillo. Invece sono di più i giorni in cui bisogna aspettare? Beh, la certezza. Appunto, se ci mettiamo a correre dietro tutte le dichiarazioni di tutti i ricercatori del mondo, forse facciamo un errore. Che dopo ci siano dei valori che noi possiamo definire outlier, cioè che stanno al di là di quello che definiamo essere il range di normalità, vabbè, questo è possibile, ma siamo nel caso dell'eccezionalità. Il periodo di incubazione medio è sui 5-6 giorni, non è molto lungo. Anche perché questa cosa viene da uno studio di ricercatori cinesi cofirmato dal dottor Zhong Nashan, che è il medico che scoprì la SARS nel 2003, che adesso funge da consulente. Quindi uno dice, ma è accreditato. Dopodiché, se i casi in cui il periodo di incubazione è particolarmente lungo sono 0,01% di tutti i casi, ci preoccupiamo relativamente poco. Un conto è dire in media il periodo di incubazione 12 giorni, 24 il periodo massimo, un conto è dire 5-6 giorni il periodo medio. Il 95% dei casi, il 99% sta, rientra nei 12 giorni, e dopo c'è qualche valore che va al di là. Un conto invece è dire, si arriva a 24 giorni, ma quanti sono quelli che hanno un periodo di incubazione così lungo? Diciamo che certezze per il momento, professor Rezza, ne abbiamo poche. Le modalità di contagio, questo è uno studio che, se non sbaglio, tedesco, che avrebbe dimostrato, almeno avrebbe fatto l'ipotesi, che quando si starnutisce, se qualcuno è infetto, le goccioline sono sospese per qualche minuto nell'aria, o per un minuto nell'aria, poi si depositano sulle superfici intorno, sugli oggetti, e lì potrebbero rimanere alcuni giorni. Quindi questo potrebbe, per esempio, sulla nave Diamond Princess lì nella baia giapponese, addirittura moltiplicare in un modo virulento, no, i contagi. No, su questo fosse. Hai delle cose da dire, perché questo è uno studio che ho letto, pubblicato su una rivista, diciamo non top, una buona rivista, Journal of Hospital Infection, sì, giornale delle infezioni ospedaliere, in cui si va a valutare la sopravvivenza nell'ambiente di coronavirus, non di questo nuovo coronavirus, ma di due coronavirus umani, quelli che danno il raffreddore comune, del coronavirus della SARS e del coronavirus medio orientale. Ebbene, sembra che la resistenza all'ambiente ci sia, però sinceramente non mi preoccuperei se per esempio vengo a scoprire che il coronavirus medio orientale è uno di quelli estremamente resistenti all'ambiente. Come sappiamo, non riesce assolutamente a causare epidemie. Quello che mi preoccupa di questo nuovo coronavirus è il fatto che probabilmente le persone diventano contagiose quando cominciano a sviluppare sintomi, e che ha una contagiosità piuttosto elevata mentre passa da persona a persona, quindi per via respiratoria. Dopodiché, se consideriamo la mano un oggetto inanimato, che la mano viene contaminata, si dà la mano a un'altra persona e questa se la porta agli occhi, è un altro discorso. Ma la contaminazione ambientale, per quanto possa giocare un ruolo, non la ritengo particolarmente importante. Professore, È veramente molto sensibile ai comuni disinfettanti, qualsiasi disinfettante. Quindi è sensibile ai disinfettanti comunque? Assolutamente. Senta, poi adesso si continua a parlare, naturalmente c'è questa rincorsa al vaccino. La Cina oggi ha dato notizia che ha iniziato la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino contro il nuovo coronavirus, però sappiamo che poi prima di sperimentarlo sugli esseri umani, insomma, ne passa di tempo, no, professor Rezza? Certo, certo, perché questo è un punto essenziale, ovvero sia il vaccino può essere, abbiamo la tecnologia per mettere a punto dei vaccini in tempi molto brevi. Però il punto è che dopo bisogna fare varie fasi di sperimentazione, soprattutto nell'uomo, per dimostrarne sia la sicurezza che l'efficacia, e non è una cosa che prende poco tempo. Dopo bisogna produrlo su ampia scala, quindi meno di un anno certamente non è pensabile, però c'è la tecnologia, quindi se si prende tempo e se i cinesi, con questo grande sforzo che stanno facendo, riescono a circoscrivere i focolai, allora c'è il tempo anche per mettere a punto un vaccino. Però intanto per il momento dobbiamo fare senza questo vaccino. Professore, le faccio ancora solo due domande e poi la lascio al suo frenetico lavoro. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo sempre bisogno di rassicurazioni, no? Abbiamo sentito il blocco dei voli, abbiamo sentito che i malati per il momento, quelli confermati sono tre, la coppia di turisti cinesi e questo giovane ricercatore italiano di 29 anni, tutti allo Spallanzani, mi scusi, non è coronavirus il mio, è influenza comunque di quelle fastidiose, ecco, allo Spallanzani di Roma tutti e tre. Per il momento quindi è ancora piuttosto sotto controllo da noi, no? Sì, no, da noi è del tutto, in questo momento apparentemente è del tutto sotto controllo. Quello che abbiamo è il picco dell'influenza stagionale. Lo sento anch'io. Professore, mentre non abbiamo circolazione di coronavirus, fortunatamente. Meno male. Professore, per chiudere... Siamo stati anche molto tenaci e duri nelle misure prese. Delle misure prese molto drastiche. Allora, oggi il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca ha detto: i virus di solito spariscono nel mese di aprile, il calore in genere uccide questo tipo di virus e quindi confido che finirà questo coronavirus in aprile. Possiamo quindi stare tranquilli secondo le previsioni di Trump, professor Rezza? No, non sappiamo se è un indovino o in questo caso parli per come dire, conoscenze scientifiche, però qualcosa di vero può anche esserci, cioè quando, non tanto la primavera, perché i coronavirus in primavera circolano ancora abbastanza, quando arrivano i mesi estivi nei paesi a clima temperato, come si sa, chiudono le scuole, non si frequentano più locali affollati, quindi i virus respiratori non trovano le condizioni per diffondersi rapidamente. Quindi l'estate è un po' nemica dei virus respiratori. Quindi prendere tempo adesso per arrivare al periodo estivo, diciamo, comunque sia, potrebbe non essere una cattiva idea. Bene, allora viva l'estate in tutti i sensi. Guardi, professor Rezza, l'aspettiamo con tanta ansia. Grazie, professor Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Buon lavoro, allora. A presto. Grazie, professore. Arrivederci. Bene, qui ci fermiamo per una pausa di respiro e di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Pietro sta scrivendo: ma a Singapore fa già caldo adesso? A Singapore, tra l'altro, non mi sembra che ci siano dei casi conclamati. Vi dico, è difficile, corro dietro a tutte le notizie diverse, gli argomenti più diversi, anche aggiornarmi costantemente su tutte le novità che riguardano il coronavirus, i paesi eccetera. Si parla adesso di 24 paesi dove ci sono dei casi. Ora, precisamente a Singapore questa cosa non la so dire così su due piedi. Comunque continuate con i vostri commenti. Qualcuno dice: Walter, produzione industriale a meno 4,5, se continua così dovremo fare tutti cantanti e sperare in Sanremo, non ci sarà posto neanche nell'Ariston per essere tutti cantanti. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto. Roberta Giordano con voi come sempre in questa sfida quotidiana nel raccontarvi a fine giornata tutto quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, di tanti fatti diversi, e poi gli approfondimenti naturalmente con gli ospiti per rendere più chiari gli argomenti. Roberta Giordano, appunto, sempre con voi, così come la vostra possibilità di interagire qui con Effetto Notte al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Abbiamo parlato adesso lungamente degli ultimi aggiornamenti che riguardano il coronavirus con il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Rezza. Adesso invece ci concentriamo su il significato della giornata di oggi. Oggi 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo, cioè la giornata in memoria di tutte le vittime delle foibe, ovvero le migliaia di persone che sul finire della Seconda Guerra Mondiale, a partire già dall'armistizio dell'8 settembre del 1943, subirono in modo assolutamente indiscriminato, atroce, la vendetta in Istria e in Dalmazia da parte dei partigiani jugoslavi di Tito contro i fascisti che nell'intervallo tra le due guerre fascisti avevano amministrato quei territori con molta durezza, imponendo una italianizzazione forzata, reprimendo, osteggiando le popolazioni locali. E gli obiettivi degli uomini di Tito quindi era la vendetta e l'occupazione dei territori italiani. Tra il maggio e il giugno del 1945 migliaia furono gli italiani dell'Istria, di Fiume, della Dalmazia che furono obbligati o a lasciare la loro terra, altri furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle foibe, appunto le cavità carsiche, o deportati nei campi sloveni e croati. Secondo alcune fonti le vittime di quei mesi furono tra le 4.000 e le 6.000, per altri addirittura 10.000. In questo giorno del ricordo, dunque manifestazioni in molte città d'Italia, in Parlamento e anche al Parlamento europeo, il presidente italiano David Sassoli ha parlato di tragedia nazionale che per troppo tempo vergognosamente si è tentato di negare. Mattarella, presidente della Repubblica, già nei giorni scorsi aveva ricordato che le foibe furono una sciagura nazionale, ha detto, alla quale i contemporanei non attribuirono per superficialità o per calcolo il dovuto rilievo. Questa penosa circostanza pesò ancora più sulle spalle, dice Mattarella, dei profughi. Ministro degli Esteri Di Maio ha detto oggi: il ricordo di quell'eccidio si deve trasformare in insegnamento ed esaltazione dei valori della pace. Sentiamo il presidente del Consiglio Conte, l'ho fatto sentire anche in parte all'inizio, che cosa ha detto oggi a proposito di questa giornata. Oggi siamo qui per risanare quella ferita inferta a quelle genti e loro discendenti, per chiedere ancora una volta scusa per l'oblio che ha inghiottito per decenni questa sciagura nazionale, alla quale i contemporanei, per superficialità o per calcolo, come ha avuto modo di sottolineare il presidente Mattarella, non hanno dato rilievo. Oggi siamo qui per ricordare, per riannodare il filo di una memoria spezzata e per trasmetterla alle nuove generazioni. E poi anche Fico, così come Casellati, presidenti di Camera e Senato, ne hanno parlato. Su questo coinvolgo il professore Mario Canali, che è docente di storia contemporanea all'Università di Camerino. Professore, buonasera. Buonasera. Quindi intanto pesa sulle spalle, insomma, dell'Italia, dei vari governi che si sono succeduti, dello Stato italiano, il fatto appunto per tanti anni di aver cercato di dimenticare, di rimuovere, no, questa tragedia, sì, questa sciagura atroce, professore. Sì, ma un po' soprattutto per calcolo politico. Le foibe rappresentavano per molte forze politiche, rappresentavano un elemento imbarazzante della loro politica in quel periodo. Mi riferisco in particolare anche e soprattutto al Partito Comunista, che in quel momento, chiaramente ispirandosi a modelli dell'Europa orientale, in particolare i rapporti stretti che aveva con la Jugoslavia di Tito, non aveva questo grande interesse a far emergere questa tragedia nazionale. Quindi in un certo senso l'egemonia culturale anche che conduceva, che imponeva in quel periodo il movimento comunista anche in Italia, è chiaro che si è, ha preso la forma di un silenzio su tutta la vicenda che si è protratto per diversi decenni. Professore, Daniela dice, scrivono tra gli ascoltatori, un'ascoltatrice, dice: in Istria non ci fu solo il dramma delle foibe, ma anche quello dell'esodo che si è protratto per decenni, anche chi non ha avuto infoibati in famiglia ha deciso di andare in Italia, dove è stato poi considerato un comunista, anche se non lo era, o sciavo, slavo, ma mai italiano. Quindi insomma è una cosa che si è ripercorsa. Diciamo che le foibe sono la punta dell'iceberg, drammatica, tragica, di un fenomeno storico e politico molto più ampio. Si è trattato di un vero e proprio esodo di popolazioni di origine italiana, italiani, che si erano stabiliti lì, talvolta da, voglio dire, le famiglie da decenni, e che appunto, viste la situazione e gli sviluppi della guerra e poi del dopoguerra, è vista appunto questa violenza con cui Tito e anche le popolazioni slave procuravano e come alimentavano, preferirono allontanarsi e venire a risiedere in luoghi più sicuri, lasciando tutto. Quindi è una tragedia delle famiglie, anche di tipo economico, perché queste persone lasciarono lì tutti i patrimoni che avevano in qualche modo frutto di tanti decenni di lavoro, e li lasciarono e si spostarono, moltissimi vennero, io ricordo che a Roma ci sono interi quartieri dove abitano ancora popolazioni che vennero da quelle terre. Ma la foiba rappresenta l'elemento tragico, se vogliamo. Le vittime delle foibe furono cittadini italiani che presi anche alla sprovvista, nel senso che non pensavano una rappresaglia, una repressione così violenta, così brutale. Cercarono in qualche modo di salvare un pochino loro, di salvare anche i beni, che pochi o tanti che avevano in quelle terre, ma certamente la rappresaglia fu brutale, bestiale in certi casi, e le vittime furono tantissime. E ancora noi non siamo riusciti a metterci d'accordo come storici sul numero delle vittime. Professor Canali, fra gli altri, io ho citato le massime cariche dello Stato, però anche per esempio il leader della Lega Salvini oggi ha detto: folle chi nega la Shoah e le foibe. Ecco, a parte questo senso di colpa che si porta l'Italia addosso, lo Stato italiano, di aver riconosciuto tardi, di aver negato, quindi un po' di negazionismo anche sulla tragedia delle foibe, e poi lei ha spiegato bene anche tutto il fenomeno, le ripercussioni da vari punti di vista, rimane in certi casi anche chi paragona, non è il caso di Salvini, oggi ho solo ricordato insieme le due cose, ma chi paragona la Shoah alle foibe. In realtà, anche se non esistono classificazioni di morti, di torture, di atrocità eccetera eccetera, hanno origini molto diverse. No, queste due tragedie storiche. Voglio dire, quello che li accomuna è la brutalità, se vogliamo, la bestialità con cui sono state attuate entrambe. E qui su questo non c'è da fare sconti a nessuno, nel senso che siamo di fronte a una manifestazione di bestialità, di brutalità, di odio, che effettivamente trova pochi riscontri nella storia del Novecento, se non appunto in questi due fenomeni. Ma però associarli e tentare in qualche modo di fare una sorta di bilancio per vedere, per attutire o per attenuare uno rispetto all'altro, o comunque metterli insieme per fare un po' di confusione, che in qualche modo non so a chi giovi poi, questo è assolutamente assurdo, è assurdo. Siamo di fronte a due fenomeni i cui motivi e la cui portata sono di una differenza enorme, talmente visibile che, io penso, anzi non voglio pensare, che chi associ a questi due fenomeni lo faccia perché è un chiaro calcolo politico, una speculazione politica che sarebbe di bassa lega. Qui siamo di fronte a un genocidio che ha coinvolto circa 6 milioni di individui, di innocenti, la cui unica colpa era quella di essere ebrei, e soprattutto sono vittime di una struttura ben organizzata, di uno Stato che si muove con la logica ideologica della superiorità razziale. Gli ariani sono una razza superiore, gli ebrei sono una razza inferiore, gli ebrei e tanti altri, perché non bisogna dimenticare che la giornata della Shoah non ricorda solo le vittime ebree, ma ricorda tante altre vittime. Basti pensare che si calcola un totale di 15 milioni di vittime, gli ebrei si calcolano a 6 milioni, quindi siamo di fronte a altri 10 milioni di individui che sono passati per i campi di sterminio. Di vittime dei campi di sterminio. Qui siamo di fronte a una ideologia, l'ideologia dell'odio, che si basa su una considerazione di tipo razziale. la razza ariana è una razza superiore, noi liquidiamo le altre razze perché altrimenti contaminano la razza superiore, le altre sono razze inferiori, quindi c'è un'ideologia alle spalle e poi c'è questa capacità portata avanti da uno Stato, in questo caso da una struttura organizzata che liquida scientificamente 15 milioni di esseri umani, 6 milioni di ebrei appunto perché sono colpevoli di essere ebrei. Dall'altra, nelle foibe, c'è intanto un fatto contingente, è un fatto legato a un contesto ben preciso, a un certo numero di anni e soprattutto a contingenze di carattere storico-politico. Cioè una vendetta, professor Canali, che però ha coinvolto anche tante tante persone innocenti, diciamo, la ritorsione. Questo siamo d'accordo, non è inutile anche dirlo, cioè voglio dire, c'è da condannare entrambi chi ha provocato queste due tragedie, da condannare proprio una condanna morale senza nemmeno, senza pensarci, voglio dire. Quindi la condanna deve essere totale, assoluta per tutti e due i fenomeni tragici. Mi limito a dire che sul piano storico, sul piano di un'analisi proprio, ci sono delle differenze enormi che impediscono, che non consentono di associarli, di metterli assieme. Chiaro, professore, è stato chiarissimo. Io la ringrazio, professor Mario Canali, ricordo dell'Università di Camerino. Grazie, professore. Canali. Buona serata e c'è adesso la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno. Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato. È uno scimpanzé, vero? È un autoritratto. Pazzesco. Davvero un film pazzesco, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questo Parasite, una commedia nera del sudcoreano Bong Joon-ho, che ha vinto l'Oscar nella notte degli Oscar Los Angeles per il miglior film, quindi aggiudicandosi il più prestigioso, il più ambito degli Oscar, delle statuette degli Oscar, oltre naturalmente a statuette per miglior regista, miglior film internazionale, miglior sceneggiatura originale. Su questo saluto la nostra Marta Cagnola. Cara Marta, ciao! Buonasera, buonasera a tutti, rieccoci. Marta, dicevo, un film pazzesco, io lo vidi al di sopra di ogni sospetto a novembre, inizio novembre, non ricordo, quando ancora praticamente non ne parlava, almeno così a livello di massa, nessuno. Me l'aveva consigliato un'amica, dice: ma se vuoi andare al cinema vai a vedere questo film, secondo me ti piace. E devo dire che non c'è stato un solo minuto in cui è calata la mia attenzione, perché è impossibile, ha una capacità di prendere in ostaggio la tua attenzione e una suspense costante che davvero merita tutti i premi che ha ricevuto e soprattutto l'Oscar del miglior film. Io ci speravo quando l'ho visto questo film che sarebbe stato che avrebbe vinto almeno l'Oscar per il miglior film. Sei d'accordo? Mi pare di sì, perché ha ricevuto, sì. Marta, no? Sì, devo dire che la cosa pazzesca di questo film è che riesce a cambiare tono, a cambiare sfumature mille volte nello stesso film, dall'ironia alla tragedia, no? Alla compassione, sì, sì, il spettatore pensa di trovarsi di fronte a un film, invece poi in realtà la storia è tutt'altra. È un film molto bello da vedere e diciamolo subito che è tornato in sala, perché se certo. Qualcuno l'avesse perso qualche mese fa, vale la pena di cinema, è nei cinema, sì sì. Senti, la cosa particolare, fra l'altro, appunto è ambientato nel Sud Corea, questa guerra tra poveri e ricchi che prende poi delle sfumature, una strada senza ritorno incredibile, quindi davvero da consigliare. Ma la cosa particolare è che è il primo film, tu mi confermi, Marta, che da 92 anni del premio dei premi degli Oscar riceve come film non in inglese, non in lingua inglese, il premio come miglior film. Qualcuno sta scrivendo: ma non era anche The Artist? Ma quello in realtà doveva prendere l'Oscar per il miglior film straniero, non c'entra, qui non si... Non... Le varie categorie, c'è anche il film straniero, no? Per gli Oscar, il miglior film straniero, cioè non in lingua inglese, ma in questo caso Parasite, film sudcoreano, quindi non in lingua inglese, ha vinto proprio l'Oscar più ambito, quello del miglior film. Peraltro, noi stiamo parlando di film che hanno, cioè film in lingua non inglese. The Artist è un film muto, ha vinto l'Oscar al miglior film ed è l'unico film muto insieme ad Ali del 27, quindi è un, The Artist, un film sostanzialmente, sì, ci sono dei brevissimi dialoghi alla fine, ma un film interamente parlato in una lingua straniera non era mai stato premiato, perché ci sono stati film stranieri, quindi non americani, ma tutti parlati in inglese. Questo appunto è, quindi ha infranto il soffitto di vetro, ha rotto un tabù, definitivamente. Sì, The Artist è in realtà appunto un film di 9 anni fa, direi, che è sostanzialmente definito e ritenuto un film muto. Per questo appunto non può essere in questa categoria. Allora, la cosa particolare è che la scuola coreana del cinema è una scuola estremamente importante, estremamente fiorente, ma non aveva mai ricevuto questo tipo di riconoscimento negli Stati Uniti. Parasite aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes e quindi l'Europa già più volte aveva premiato i film coreani, ma negli Stati Uniti è stata veramente una rivoluzione. La prima assoluta. Sì, quindi, teniamo presente che questa cosa ha anche creato qualche dibattito, perché in anni di attenzione alle minoranze e di Oscar so white, cioè gli Oscar troppo bianchi che non tengono in considerazione troppo bianchi, troppo le occidentali, minoranze, troppo maschili. Esatto, e invece questa volta sì, è arrivato un riconoscimento, ma del tutto inedito, perché è un riconoscimento che arriva all'altra parte del mondo, all'Asia, e quindi ha un po' sparigliato tutte le carte in gioco. Bene, speriamo che faccia presidente da battistrada. Tra l'altro sappiamo che c'è anche un pezzetto di italianità in questo film, perché non so come mai la scelta, ma qui ci dobbiamo lasciare Marta, di mettere la canzone di Gianni Morandi, che ci stava poi benissimo, no? In ginocchio da te a un certo punto del film, nella scena. Gianni, diciamo, Morandi oggi ha fatto un video, uno dei suoi video su Facebook, nel quale ha detto tutti mi stanno chiamando come se avessi vinto io l'Oscar. In realtà l'ha vinto lui, il film è bellissimo, era molto contento ovviamente di questa scena con una canzone di Gianni Morandi. Non vi possiamo dire molto di più, andatelo a vedere, veramente vale la pena, un premio meritatissimo, non c'è niente da dire. Grazie Marta Cagnola, ciao Marta, a presto. Abbiamo assaggiato nei giorni scorsi l'inarrestabile irruenza di venti considerevoli, bisogna dire, e ora su parte dell'Europa occidentale imperversa la tempesta Charia, che non ho ancora capito bene come si pronuncia. Chiamo in causa il nostro Paolo Corazzoni di Trebi Meteo, caro Paolo. Buonasera, buonasera, non lo so neanche io come si pronuncia, Chara in italiano, ma forse Sierra in inglese, vai a capire, ma poco importa, resta il fatto che nel centro-nord dell'Europa avranno ancora ore difficili, venti che soffrirà più di 150 all'ora, piogge torrenziali, purtroppo anche delle vittime, ma noi per fortuna siamo solo sfiorati da questa tempesta, quindi da noi gli unici effetti degni di nota sono un po' di vento che soffrirà nelle prossime ore e domani sull'arco alpino, Alpi e Prealpi, e poi anche sulle regioni del centro Italia, sia il versante tirrenico che quello adriatico. Venti magari anche piuttosto sostenuti, si arriverà anche a più di 70-80 km orari, però nulla a che vedere con quanto sta accadendo sull'Europa centro-occidentale. Per il resto da noi poco o nulla, addirittura ti dirò domani, giornata primaverile, perché nonostante il vento toccheremo anche i 20 gradi domani in molte località. Quindi per fortuna noi siamo fuori dai giochi, quantomeno solo sfiorati da questa tremenda tempesta. Bene, per tutti e anche per me, che ho l'influenza da circa 5-6 giorni, quindi sarebbe anche il caso che arrivi la primavera, antitempo. Grazie Paolo Corazzon, se non succede nient'altro, tanto ci hai rassicurato su questa tempesta che arriva molto depotenziata. Anzi, davvero, l'ultimo commento, questo inverno in realtà ci ha fatto sentire ben poco sul Mediterraneo e ormai si respira aria di primavera, nel senso che per diversi giorni non dovrebbe capitare nulla di particolare, quindi mi sa che l'inverno quest'anno l'abbiamo bypassato in qualche modo, dai. Evviva, grazie Paolo Corazzon, a presto caro Paolo, buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo. Ciao. Ci riaggiorniamo brevemente alle 22.